entrate in quella casa quando si fanno i conti a fine mese e ci trovi chi si incazza perché non quadrano le spese. E se qualcuno poi c'ha un capriccio, un lecca-lecca da comprare, deve dirlo prima ad alta voce per sentirselo negare. E ce lo dicono senza inganni. Qui c'è bisogno di forti tagli. Entrate poi all'università per informarvi sull'iscrizione. Prego, si accomodi, firmi qua. Quest'anno la tassa è di 1 milione. Poi torni a casa con la notizia. È una gran voglia di lavorare e questa non è un'ingiustizia. Com'hai ragione, ragione papà. E ce lo dicono senza inganni. Qui c'è bisogno di forti tagli. E l'Italsider, la Galileo, la Lenia e pure l'Alfa Diarese han detto ai loro operai: andate, andate a fare spese, al lavoro non ci pensate, godetevi il mare e il solleone, non ci pensate, non ci pensate, che state in cassa integrazione. E mi consenta, senza inganni, qui c'è bisogno di forti tagli. Qui c'è bisogno di forti tagli. Italiani, italiani, statemi a sentire. Andate a lavorare e non a scioperare e non dite niente. E aspettate gli eventi senza protestare, che ce l'ho io il potere. E dovete aspettare, e dovete aspettare. E dovete aspettare, e dovete aspettare il cavaliere che vi venga a salvare con la sua spada per forti tagli, con la sua spada per forti tagli. Qui c'è bisogno di forti tagli. E se qualcuno poi si incazza, oppresso da fame, problemi e usura, e così per gioco scende in piazza a tirare sassi contro un muro, ed è fermato con la forza perché viene creduto un pazzo, lui dice: solo un altro sasso dalla piazza verso il palazzo. E ce lo dicono senza inganni, qui c'è bisogno di forti tagli.